tutto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Un nuovo naufragio nell'Egeo e tra le vittime c'è anche un neonato, mentre la Turchia dice riprenderemo qualche migliaio di profughi, non certo milioni. È in corso la mobilitazione contro il via libera alle importazioni senza dazi di olio tunisino. Saranno 35.000 tonnellate l'anno per quest'anno e per il 2017. Amministrative, sabato Bassolino lancerà la sua lista per Napoli. A Milano Gherardo Colombo rifiuta la candidatura, mentre a Roma si riaffaccia l'ipotesi Marino. Renzi inaugura una galleria sul nuovo tracciato della Salerno-Reggio Calabria. Ci vuole un'Italia che corre, dice il Premier. Positivi i dati diffusi oggi dall'Istat sull'occupazione. Truffe e sprechi costano allo Stato 4 miliardi l'anno, dice la Guardia di Finanza nel suo rapporto annuale. Sono quasi 8.500 gli evasori totali scoperti. E c'è, a questo proposito, il nuovo caso dei forestali siciliani. Dei 25.000, oltre 3.000 hanno pendenze penali e non sono compatibili con incarichi nella pubblica amministrazione. Ce ne sono anche 50 condannati per mafia. La regione promette pulizia. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms, così come per i messaggi su WhatsApp e l'email, ovviamente effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dunque ancora dalle questioni che riguardano i migranti e i profughi, perché c'è stato un naufragio oggi nell'Egeo, un nuovo naufragio nell'Egeo, è ancora incerto il numero delle vittime, al momento pare che siano 7, sicuramente c'è anche un neonato, un bambino di 3 mesi, i migranti che dalla Turchia cercavano di raggiungere le coste greche. Dunque ripartiamo da qua e ripartiamo con il nostro viaggio nel cuore della crisi europea. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Ripartiamo da qua, dunque, ripartiamo proprio dalla Grecia. Ci colleghiamo con la nostra inviata ad Atene, Valeria De Rosa, un'Atene stretta tra la crisi economica che ancora attanaglia il paese e la gestione, appunto, dell'emergenza dei profughi e dei migranti. Valeria, buongiorno. Buongiorno da Atene. La Grecia assiste all'ennesima strage nell'Egeo, quasi rassegnata. La sensazione è che qui abbiano smesso da tempo di fare affidamento sull'Europa e le decisioni o non decisioni di Bruxelles. Dei turchi non si sono mai fidati, quindi in merito alle precisazioni fatte oggi dal ministro per gli affari europei turco sul numero, migliaia e non milioni di migranti che raccoglieranno e sul fatto che sono esclusi coloro che sono già sulle isole, per ora nessuna reazione. È possibile che il governo Tsipras provi a reclamare. C'è però una certa irritazione per le continue sottolineature sulla chiusura della rotta balcanica decisa dai 28. I greci hanno cominciato a fare da soli per quello che possono. Di certo non è mancato il sostegno e l'aiuto attivo dei greci in tutta questa crisi. Se non c'è stata carenza di cibo, vestiti, è solo per la solidarietà che ormai da un anno coinvolge tutti, piegando anche la polizia notoriamente molto dura in Grecia. Una situazione non più sostenibile però per un paese che in questi giorni sta affrontando un nuovo esame da parte dei funzionari della Troika arrivati qui martedì. La situazione economica non è molto diversa da quella che era un anno fa. È scesa la disoccupazione, ma si rischia comunque un'altra crisi di liquidità. Così riassume la situazione Yannis Tsamikas, presidente della Camera di Commercio Italo-Ellenica. È molto difficile e molto critica, perché in questo momento non parliamo per la crisi greca, dobbiamo parlare per la crisi europea. La Europa, la quale ha perso la sua umanità, la quale ha perso la sua civiltà, la quale ha perso ormai tutta la sua umanità. Queste migliaia e migliaia di profughi che arrivano ogni giorno in Grecia e sono bloccati per non passare in Europa, crea una situazione tremenda, non per il paese Grecia, ma per tutta l'Europa. Una situazione dunque tutt'altro che semplice. Tra poche settimane, tra l'altro, qui riprende la stagione turistica e se la crisi dei migranti non verrà risolta, almeno in parte, si rischiano pesanti cali nelle prenotazioni per un settore che vale poco meno del 20% del PIL. E da Atene per il momento è tutto. E grazie alla nostra Valeria De Rosa per questo racconto da Atene. Riprendiamo dunque con effetto giorno, ma non ci fermiamo nel parlare della crisi europea, perché molto vi abbiamo parlato dei migranti, c'è anche ovviamente una situazione economica non facile e molte attese sono concentrate, tanto quelle dei mercati quanto quelle dell'economia reale, sulle decisioni che potrebbe prendere oggi la Banca Centrale Europea in una riunione del direttivo che viene considerata molto importante. Abbiamo in linea con noi Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, buongiorno, e che cosa possiamo aspettarci da Draghi? Sì, buongiorno. Draghi ha tenuto le carte molto coperte questa volta, lui e i suoi più stretti collaboratori. È molto difficile anticipare che cosa annuncerà nella prossima ora, ora e mezzo. Come sappiamo, alle 13.45 ci sarà l'annuncio sui tassi di interesse, e questo già porterà delle novità probabilmente significative, nel senso che si prevede che la BCE abbassi ancora il tasso sui depositi che le banche tengono presso la BCE stessa, quindi penalizzerà ulteriormente le banche per tenere la liquidità presso la BCE. Non sappiamo con quali modalità. L'altro passo che potrebbe intraprendere la BCE per dare un po' più di stimolo monetario è quello di modificare, espandere o allungare il suo programma di acquisto di titoli, il cosiddetto QE. E poi bisogna aspettare le parole di Draghi, che spesso sorprende i mercati e sorprende chi lo ascolta. Quindi abbiamo ancora alcune decine di minuti in suspense. 13.45 l'annuncio dei tassi, 14.30 la conferenza stampa di Draghi. Benissimo, grazie intanto ad Alessandro Merli, col quale noi torneremo a collegarci, come sempre facciamo quando ci sono dei momenti importanti nella vita della Banca Centrale Europea, soprattutto quando ci sono dei direttivi importanti come quello di oggi. Andremo lievemente in anticipo a sentire alle 13.45 che cosa succede sulle strade. Sentiremo America 24, in chiusura di trasmissione ci collegheremo con Alessandro Merli per capire quali sono state le decisioni in merito alla politica monetaria. Andiamo all'estero e parliamo innanzitutto di Tunisia, perché è salito a 46 il numero totale dei militanti ISIS rimasti uccisi durante gli scontri armati con l'esercito nei pressi della città di Bengherdana, al confine con la Libia, che hanno interessato la regione da lunedì scorso. Sono tutti di nazionalità tunisina i combattenti catturati o morti, lo ha dichiarato il portavoce del governo. Per quanto riguarda invece l'attacco avvenuto nei giorni scorsi alla città, lunedì scorso, si è trattato di un vero e proprio tentativo fallito, meglio sventato dall'esercito tunisino, di conquista della città per l'instaurazione del califfato da parte di un gruppo di affiliati allo Stato Islamico. La fonte è sempre il governo tunisino. Dunque resta in primo piano anche la situazione in Libia, ovviamente non solo quella al confine. Ancora una volta ci sono due vicende che si incrociano: da una parte i misteri che ancora circondano la liberazione dei due ostaggi italiani e la morte degli altri due, dall'altra la situazione internazionale e la possibilità di un intervento militare nel paese. Vediamo di fare un punto soprattutto dal lato degli ostaggi per quanto riguarda la cronaca oggi con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo allora dai fatti delle ultime ore. Atterrato poco prima dell'una di notte all'aeroporto di Ciampino il C-130 con a bordo le salme di Failla e Piano, i due connazionali uccisi in Libia. Salme che sono ora all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli per le autopsie. Ieri sera intanto le accuse della moglie di Failla al governo, perché a suo dire non sarebbe stato fatto tutto il possibile per liberare il marito. Da qui la scelta di non fare i funerali di Stato e poi alcuni dettagli sulle ultime fasi del rapimento. Secondo la signora Failla, un sequestratore avrebbe chiamato parlando in italiano, circostanza questa non confermata però da uno dei due ostaggi italiani liberati. Nessuno parlava italiano, dice Calcagno, ma qui è bene ricordare che le due coppie di ostaggi potrebbero essere state in mano a gruppi diversi di sequestratori. Altro tema, quello di un probabile impegno italiano in Libia di fronte alla minaccia reale dell'ISIS. L'Italia si difenderà, ha chiarito il ministro degli esteri Gentiloni, ma il governo ha aggiunto non si farà trascinare in avventure inutili e perfino per pericolose per la sicurezza nazionale. L'ISIS, Simone, e chiudo, avrebbe intanto un nuovo capo in Libia che avrebbe dichiarato: prego perché lo Stato Islamico conquisti Roma. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Abbiamo parlato poco fa degli scontri tra l'esercito tunisino e appunto i miliziani dell'ISIS al confine con la Libia. Fu proprio dopo gli attentati al Museo del Bardo e gli altri attentati che colpirono la Tunisia che l'Europa decise di dare un aiuto concreto appunto al paese, a Tunisi, e lo fece proponendo appunto un'importazione di olio nell'Unione Europea, di olio tunisino, a dazi zero. Ebbene, poco fa il Parlamento Europeo ha dato il via libera libera definitivo a questa misura. L'import senza dazi riguarderà 35.000 tonnellate in più di olio tunisino per il 2016 e altrettante per il 2017. E che cosa è riuscita ad ottenere l'Italia, che parzialmente, almeno parzialmente, si era opposta a questo provvedimento? L'obbligo di tracciabilità del prodotto tunisino e divieto di proroga oltre i 2 anni previsti e una valutazione a medio termine dell'esecutivo europeo, ossia della Commissione europea, per verificare eventuali danni ai produttori europei. Sono in corso varie proteste, a partire da quella di Coldiretti e quella delle opposizioni italiane, nella fattispecie Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Siamo all'economia, appunto, con i dati su occupazione e disoccupazione diffusi questa mattina. Per la prima volta in 7 anni il tasso di disoccupazione scende e nel 2015 si ferma all'11,9% dal 12,7% del 2014. Forte diminuzione di quella giovanile, ovvero per i ragazzi tra i 15 e i 24 anni, non calava dal 2007, ora si attesta al 40,3%. Complessivamente, spiega l'Istat, il numero di disoccupati scende di 200.000 unità grazie soprattutto a una discesa nella seconda metà dell'anno. Dall'altra parte, nel 2015 ci sono stati 186.000 occupati in più, pari a una crescita dello 0,8%, che riguarda più che altro il lavoro dipendente e in particolare gli uomini, i contratti a tempo indeterminato, con un aumento nell'ultimo trimestre e tra gli over 50. Calano invece per il quinto anno i lavoratori autonomi, sottolinea l'Istat, che certifica la divaricazione tra l'andamento positivo dell'occupazione dipendente e la debolezza persistente di quella indipendente. In generale, continuano gli studiosi, il miglioramento è dovuto in parte anche alla ripresa nel mezzogiorno, nonostante restino le differenze col centro-nord Italia, dove sono occupate oltre 6 persone su 10 tra i 15 e i 64 anni, mentre nel sud scendono a poco più di 4. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A proposito di economia e di mezzogiorno, il Presidente del Consiglio Renzi è stato questa mattina sulla A3, la Salerno-Reggio Calabria, alla cerimonia di abbattimento dell'ultimo diaframma della galleria Mormanno Nord. Siamo in provincia di Cosenza, sul nuovo tracciato dell'autostrada, autostrada che Renzi ha promesso verrà inaugurata nella sua nuova versione, nella versione rifatta il 22 dicembre. Ha parlato anche del nostro paese, dice ci vuole l'Italia che corre, che fa le cose, non che ingrassa i conti correnti degli avvocati per le varie cause, riferendosi ovviamente ai molti ricorsi che negli anni hanno bloccato appunto gli stessi lavori della Salerno Reggio Calabria. Passiamo alla cronaca. Allora, a volte 2-3 mila euro, a volte anche 50.000, sempre in contanti, a volte anche platealmente contanti. Queste sono le mazzette che i membri della Commissione Tributaria di Roma avrebbero incassato per risolvere i contenziosi fiscali dei contribuenti. Ieri 13 persone sono state arrestate, ve lo abbiamo raccontato. Tra gli atti dell'inchiesta consultati da Radio 24 spuntano anche intercettazioni decisamente esplicite e il tariffario dei giudici tributari. Ci sono delle percentuali per avere la certezza di vincere. Ai contribuenti le istruzioni per mettersi al posto col fisco venivano impartite dalla stessa commissione tributaria incaricata di regolare i contenziosi, perché se coinvolgi il relatore e il presidente, spiegano chiaro e tondo, c'è il 100%, registrano le intercettazioni, cioè quando tutti i membri sono d'accordo, giudice, avvocato, professore, le contestazioni come per magia cadono. La cricca romana del fisco, scoperta dalla Guardia di Finanza di Velletri, offriva il servizio completo, erano direttamente loro a cercare il cliente, diciamo così, ed erano sempre loro a dirgli esplicitamente non ti preoccupare, il ricorso te lo scrivo io, come si legge nelle conversazioni, e di fatto così avveniva. 20 volte, registrano gli investigatori, un giudice tributario ha chiamato un commercialista la cui causa gli era arrivata sul tavolo. Vieni, mi devi spiegare alcuni aspetti, era l'espressione in codice. Mi faccia richiamare subito, sono un giudice della commissione tributaria io, non un impiegato, ripete al telefono, e dalla sanzione minima per il lavoro in nero al rilievo fiscale milionario la formula si ripeteva uguale, solo con percentuali diverse e proporzionate, ma con la stessa plateale consegna di contanti in buste. Tutto questo è proseguito anche quando gli indagati a metà 2014 hanno ricevuto la notifica della proroga delle indagini, quindi erano consapevoli dell'inchiesta a loro carico e per alcuni anche ai domiciliari. Ed è quello che un investigatore chiama il delirio di onnipotenza, a far pensare che la pratica possa essere stata ripetuta molte altre volte ancora in Lazio e non solo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla politica con i grandi problemi che sta attraversando il Partito Democratico dopo le primarie a Roma, Milano e Napoli. Iniziano, come dire, ad arrivare, inizia ad arrivare qualche notizia, a partire da quella che a Milano Gerardo Colombo non si candiderà per una lista, per così dire, di sinistra-sinistra, mentre sembra che sia intenzionato a scendere in campo Ignazio Marino. Nel frattempo, in primo piano resta Napoli, perché Elisabetta Fiorito, buongiorno, forse Bassolino potrebbe tornare in campo. Sì Simone, allora non si ritira dalla corsa sindaco di Napoli Antonio Bassolino e dà appuntamento ai fedelissimi sabato alle 10.30 al Teatro Augusteo. Il giorno dopo la bocciatura del suo ricorso per l'esito delle primarie del PD, l'ex primo cittadino pensa a scendere in campo con una lista civica e pensa anche di presentare un ricorso bis perché, dice Bassolino, la mia è una battaglia per la legalità. Il rispetto delle primarie dei cittadini napoletani, mi batto per l'onore del PD. Valeria Valente, la candidata data PD a sindaco di Napoli, chiede invece a Bassolino una battaglia comune per cambiare le cose, anche perché a Napoli, ricorda, hanno votato 30.000 persone. A Roma invece il governatore del Lazio Nicola Zingaretti è preoccupato per la divisione patologica della politica romana, mentre Ignazio Marino potrebbe correre con una lista civica. A Milano Gerardo Colombo non si candiderà. Da registrare poi l'affondo dell'ex segretario PD Pierluigi Bersani sul Corriere, che parla di fatti incredibili e della possibilità che gli elettori Dem non seguano i candidati scelti nelle primarie. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti di politica. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione abbiamo molti argomenti di cui parlare, a partire dalla vicenda della quale vi abbiamo dato parzialmente notizia ieri, uscita proprio mentre eravamo in onda. Quest'uomo, un somalo di 22 anni, che è stato arrestato in un centro profughi a Campomarino, provincia di Campobasso, e che sembra che fosse intenzionato a colpire la stazione Termini di Roma. Che cosa è successo? Che quest'uomo è entrato in questo centro per profughi, rifugiati e per migranti, insomma un centro di accoglienza, e ha iniziato a predicare. Ebbene, un suo connazionale somalo, anche lui, che cosa ha fatto? Ha registrato queste prediche incendiarie e l'ha portate al capo del centro di accoglienza, e là è partito tutto. Ebbene, parleremo proprio con chi si occupa dell'accoglienza là a Campomarino per farci raccontare questa vicenda. E poi gli sprechi pubblici, ve lo diciamo già nei titoli, c'è il rapporto della Guardia di Finanza di oggi e poi c'è la vicenda siciliana. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E prima di tutto una notizia appena battuta dalle agenzie: il faccendere Flavio Carboni è indagato dalla Procura di Arezzo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio. Con lui risulterebbe indagato anche l'imprenditore Valeriano Mureddu, che da tempo è considerato vicino a Carboni e il cui nome era emerso anche nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria, ed era stato anche collegato il nome di Mureddu al padre del ministro Maria Elena Boschi, coinvolto, come sapete, nella vicenda Etruria. Un nuovo naufragio nell'Egeo, tra le vittime c'è anche un neonato, mentre la Turchia dice riprenderemo qualche migliaio di profughi, non certo milioni. C'è una mobilitazione in corso contro il via libera alle importazioni senza dazi di olio tunisino. Saranno 35.000 tonnellate l'anno per quest'anno e il 2017. Nel frattempo la Tunisia prosegue i combattimenti al confine con la Libia. 45 al momento gli jihadisti morti. Sulle amministrative sabato Bassolino a quanto pare lancerà la sua lista per Napoli. E poi truffe e sprechi che costano allo Stato 4 miliardi l'anno secondo la Guardia di Finanza, e oggi parleremo anche del nuovo caso che riguarda i forestali siciliani. 3.000 hanno pendenze penali e non sono compatibili appunto con incarichi nella pubblica amministrazione. Simone Caner è legale rappresentante della cooperativa Pianeti Diversi. Buongiorno Caner, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La cooperativa Pianeti Diversi gestisce insieme ad altre cooperative il villaggio Happy Family di Campomarino. È dove risiedeva il... è stato detto l'imam. Qualcuno obietta che forse imam non è la parola corretta per un ragazzo di 22 anni, di fatto predicava lo jihadismo anche all'interno, evidentemente, sì, di... Non, lo era. Non era un imam a tutti gli effetti, no Caner? No. Era assolutamente un imam, ma chiaramente era un'ambizione che non ha trovato proselitismo all'interno del centro. Sì, prego. No, Io ci tenevo a ribadire un concetto che ho espresso anche ai suoi colleghi. L'espulsione del soggetto in questione, prima di avvenire dall'esterno, è giusto che sia stato da parte delle forze dell'ordine, è avvenuta già all'interno del centro di accoglienza da parte degli altri ospiti del centro stesso. Allora, bravissimo, io a questo vorrei arrivare con lei proprio al racconto di quello che è successo all'interno del centro, perché è un punto secondo me molto interessante. Intanto, giusto per riassumere agli ascoltatori che di cosa stiamo parlando, è la vicenda di quell'uomo di 22 anni, originario della Somalia, che predicava lo jihadismo, secondo alcune intercettazioni era intenzionato a fare un attentato alla stazione centrale di Roma. Ci sono molte cose da ricostruire anche dal punto di vista investigativo su questa vicenda, perché avrebbe attraversato anche una serie di paesi europei nei quali avrebbe fatto richiesta d'asilo prima di approdare poi in Italia. Però adesso vogliamo rimanere sulla cronaca di quello che è successo. Da quel che ho capito, Caner, tra l'altro, è stato proprio un connazionale di quest'uomo di fatto a denunciarlo a voi, cioè ha registrato queste prediche, per così dire, queste incitazioni allo jihadismo e alla guerra santa, e ve le ha portate, no? Vede, non solo un ragazzo, la stragrande maggioranza dei ragazzi sentono questa accoglienza che l'Italia, molti cittadini italiani, oltre che la nostra organizzazione dà, e la ricambia. Vede, un centro di accoglienza dove noi abbiamo la possibilità di monitorare gli orari di entrata e di uscita della persona, dove l'installazione di telecamere volute dalle forze dell'ordine è avvenuta repentinamente, dove è possibile fornire agli inquirenti ogni tipo di indicazioni utile all'indagine, è risultata forse essere la strada più scomoda, no? Per chi conta di progettare un attentato. Cioè, quello che voglio dire è che al di là del fatto che questo ragazzo si trovava nel centro di accoglienza, che poteva essere un mio vicino di casa, un suo vicino di casa, una studentessa, come è successo già precedentemente, non c'è stata solamente la nostra piena disponibilità a collaborare. Purtroppo dall'esterno fa notizia la cellula marcia, dall'interno del nostro centro si ha la percezione di quanto conti la parte sana, invece. Evidentemente, che è la stragrande maggioranza, ma questo lo sappiamo, insomma, è evidente. Senta, al di là dei ragionamenti generali, che pure comprendo, poi qua qualche ascoltatore ci scrive, qua senza dar meriti eccessivi al ministro dell'interno in sé, qualche ascoltatore ci dice, allora non è come ha detto Alfano che è merito dell'intelligence italiana. In realtà da quello che ci risulta, da quello che risulta anche a molti giornali, su una serie di personaggi, soprattutto quando fanno dei passaggi così strani, cioè attraversano 5 paesi chiedendo l'asilo, poi approdano in Italia e così via, stanno avvenendo una serie di intercettazioni, per così dire, a strascico, nelle quali poi si cerca di trovare quel che c'è. Mi diceva che la denuncia non è arrivata da una sola persona là dentro. Sì, gli atteggiamenti, quando, ripeto, si fa accoglienza all'interno di questi centri, dove sono presenti delle professionalità, quelle assistenti sociali, operatori e mediatori, succede che degli atteggiamenti vengono immediatamente registrati, degli esponenti della nostra organizzazione, anche dai ragazzi che respingono questi atteggiamenti perché non li condividono. Quindi automaticamente queste cellule isolate, marce, vengono isolate. Sì, in realtà da quel che ho capito, Caner, che su un paio di persone mi sembra che avesse fatto presa. Quanti ne ospita questo centro Happy Family? Ospita 100 migranti, ma presa per me, vabbè, poi quello che noi viviamo all'interno del centro, chiaramente io non ho elementi, non è mio dovere, chiaramente non sono legittimato a parlare degli elementi di cui all'indagine. Quello che le posso dire è che sicuramente non ha creato un movimento, non ha creato, non ha fatto adepti, ecco. Non ne ha fatti di adepti, perché oggi sui giornali si diceva, su un paio di persone sembra che avesse fatto presa. No, non, sicuramente le indagini continueranno, immagino, e comunque saremo ancora più con gli occhi aperti rispetto a quanto abbiamo fatto precedentemente. Ma ritengo che voglio fare presente che comunque non è che sono state scoperte attrezzature belliche o bombe o voglio essere chiaro su questo. Sì, è un atteggiamento, sono stati scoperti degli intenti, fanatismo e degli intenti, e poi gli inquirenti, chiaramente, come ha comunicato il procuratore di Campobasso, ha riferito di alcuni intenti sulle prove che loro hanno acquisito con la nostra collaborazione. Questa è una cosa che riguarda, ripeto, gli elementi di indagine. Sì. Io ci tenevo a ribadire, ma questo per testimonianza Stato... proprio di verità, di realtà. Lei dice che è stato respinto dalla stessa comunità musulmana che si trova all'interno del vostro centro, no? Questo ci diceva. Assolutamente. Perché lui, arrivando, aveva di fatto scalzato quello che era, quello che possiamo definire il predicatore locale, se non vogliamo dire imam. Poi, queste poi sono chiaramente uscite, ricami che vengono poi giustamente ipotizzati. No, era stato già trasferito. Non è che l'ha scalzato, nel senso che l'ha mandato via lui. Chiaramente sono determinazioni della prefettura. Era un'altra persona, è stata trasferita. E lui chiaramente aveva evidentemente nei fatti l'ambizione di divenire una guida, quello che, ma chiaramente per diventare imam, poi l'abbiamo studiato, no? Sì, abbiamo dovuto studiare, ci siamo dovuti documentare, non è un percorso che non si esaurisce solamente nella volontà di diventarlo meno. Ma i consensi, ma richiede anche uno studio e altri elementi, esatto, la conoscenza della lingua, la conoscenza del Corano, la conoscenza anche dei rapporti umani, come si riescono a ottenere, che poi fa di un imam un imam riconosciuto. Un imam riconosciuto. Certo. Sì. In questo caso sicuramente non era un imam, diciamo. Abbiamo titolato male, per così dire. La ringrazio, grazie a Simone Caner, che è legale rappresentante della cooperativa Pianeti Diversi, che gestisce insieme ad altre cooperative il villaggio Happy Family di Campo Marino, dove risiedeva l'uomo di 22 anni, a questo punto non più un imam, di origine somala, che è stato arrestato con l'accusa di pianificare un attentato a Roma, o quantomeno di pensarci su. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa e poi nella seconda parte della trasmissione ci occupiamo di sprechi pubblici, c'è il rapporto di oggi della Guardia di Finanza e c'è questo nuovo caso al quale vi accennavamo nei titoli, che riguarda la regione Sicilia e gli ormai mitici forestali. Se l'assessore all'agricoltura Cracolici si degnerà di risponderci, ne parleremo con lui. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, a partire dal nuovo naufragio nell'Egeo, tra le vittime c'è anche un neonato. Intanto parla la Turchia, che dice: riprenderemo qualche migliaio di profughi, non certo milioni. C'è una mobilitazione in corso contro il via libera alle importazioni senza dazi di olio tunisino, saranno 35.000 tonnellate l'anno per quest'anno e per il 2017. Il faccendiere Flavio Carboni è indagato dalla Procura di Arezzo per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, sarebbe indagato con lui anche Valeriano Mureddo, il cui nome era emerso nel corso dell'inchiesta su Banca Etruria, che aveva dichiarato in più di un'occasione di essere in rapporti col padre di Maria Elena Boschi, Pierluigi Boschi. Truffe e sprechi costano allo Stato 4 miliardi l'anno, lo dice la Guardia di Finanza nel suo rapporto annuale. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sono di oggi i dati della Guardia di Finanza, che ci dicono che truffe e sprechi costano allo Stato più di 4 miliardi di euro. Si parla anche di corruzione, un appalto su tre non è a norma, e poi di evasione. 8.485 sono stati gli evasori totali scoperti alla Guardia di Finanza nel 2015. Abbiamo parlato di sprechi, parliamo di una vicenda che è diventata un po' il simbolo per certi versi degli sprechi di Stato, che si arricchisce in queste ore di un nuovo capitolo. Antonello Cracolini, assessore allo sviluppo rurale e pesca mediterranea della regione Sicilia, in sostanza l'assessore all'agricoltura. Assessore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Parliamo dei mitici forestali della regione Sicilia, che sono al momento 23.000. Che cosa è emerso in queste ultime ore? Che insomma, state facendo delle verifiche e avete scoperto che ce ne sono addirittura una cinquantina pagati per anni dalla regione stessa, e quindi con i soldi pubblici, che sono stati condannati per mafia, è così? Ma è così, nel senso che questi lavoratori sono frutto di una legge che fu varata nel 1996 e da allora, cioè praticamente negli ultimi 20 anni, sono sempre gli stessi, perché sono graduatorie chiuse. La cosa paradossale è che in questi 20 anni nessuno ha fatto l'accertamento se questi lavoratori avessero elementi che impedivano ad avere un rapporto con la pubblica amministrazione. Sì. Abbiamo accertato in questo momento che ci sono condanne per mafia, ma ci sono anche condanne per violenza, stupri, ma anche per addirittura aver incendiato devo dirle, quella Cracolici, come potrà immaginare, è la cosa che insieme a quella della mafia ha attirato di più l'attenzione, perché questi sono, ricordiamoli, non dobbiamo confonderli col corpo forestale, sono in sostanza delle guardie forestali, appunto, pagate dalla regione, che però hanno il compito di un controllo del territorio. Ebbene, tra questi ci sono anche dei condannati per incendio doloso, che insomma sì, parrebbe di sì, comunque stiamo parlando di persone mi scusi assessore, perdoni se la interrompo, parrebbe in che senso? Nel senso che non sapete nemmeno questo? Tenga conto che fare un accertamento su 24.000 persone circa non è stata una passeggiata, e quindi ad oggi gli uffici del lavoro ci hanno informato che ci sono diverse tipologie di condanne, bisogna anche vedere se ci sono situazioni nelle quali anche la natura della condanna se poi ha determinato la riabilitazione, ci sono addirittura delle interdizioni dai pubblici uffici. Ripeto, il paradosso è che questi sono lavoratori stagionali, cioè non sono lavoratori di ruolo nella regione, ma sono lavoratori che vengono chiamati per 78 o per 101 o per 151 giornate ogni anno, quindi sono lavoratori giornalieri con un rapporto di tipo a tempo determinato con l'amministrazione regionale. Mi scusi, 3.000 in tutto, quelli un po' in dubbio? 3.000 che avrebbero situazioni di reato, ma bisogna fare una differenza per capire che tipologie di reato, perché ci possono essere reati relativi a fatti lievi e reati gravi, quindi intanto bisogna fare, e poi bisogna capire se ci sono reati, condanne solo di primo grado o di secondo grado, o se le condanne definitive. Assessore, li potete licenziare quelli, cioè nel caso voi, o meglio licenziare, non li licenziamo, sì. Non li chiamiamo. È un modo indiretto di licenziare. Fatte tutte le verifiche, ovviamente, immagino quelli condannati per mafia, insomma, quasi automaticamente direi, li escluderete dalla graduatoria. Ci sono dei reati per i quali c'è già una legge, per la verità è la legge 39, che stabilisce una legge recente, che stabilisce le tipologie per le quali nessuna persona può avere un rapporto con una pubblica amministrazione, anche di tipo lavorativo precario. Quando chiuderete tutto, cioè quando avrete i dati definitivi, le verifiche? Noi in queste ore stiamo procedendo, si è appena approvato il bilancio della regione e procederemo all'avviamento dei lavoratori 151isti, cioè quelli che fanno più giornate durante l'anno. È chiaro che procederemo innanzitutto da queste persone per fare un'attenta verifica sui requisiti che siano conformi alla legge. Quindi già parliamo di circa 4-5 mila persone. Mi dà dei tempi però, assessore, cioè quando è che potremo eventualmente richiamarla per dirle? Io penso che già a fine mese avremo avviato i 151isti e lì vedremo quanti sono quelli che saranno stati esclusi. La ringrazio, grazie all'assessore allo sviluppo rurale, all'agricoltura, Antonello Cracolici della Regione Sicilia, per essere stato con noi. Adesso il traffico con un lieve anticipo, perché poi c'è, come sempre, America 24 con Mario Platero, e poi ci ritroviamo alla fine per sentire da Alessandro Merli da Francoforte che cosa ha deciso e se ha deciso qualcosa la Banca Centrale Europea.